1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, sono le 7 e 18 minuti, cari ascoltatori, siamo pronti a leggere i giornali. Oggi parleremo dei riflessi degli attentati a Parigi, del timore che ci sia qualcosa anche in Italia, della richiesta per esempio da parte di alcuni di rivedere i trattati di Schengen e ripristinare i controlli alle frontiere. È quello che chiede per esempio Matteo Salvini della Lega, che sarà nostro ospite alle 8.15 insieme al sottosegretario all'interno Domenico Manzione, che si occupa proprio di del comparto legato alla immigrazione. E quindi parleremo di questo tema e anche di altro dalle 8.15. State con noi ovviamente per quel che riguarda gli ospiti. Intanto questo tema è ben sviluppato dai giornali, giornali che andiamo a leggere, che molti aprono proprio ancora sulla vicenda di Parigi. In questo martedì 13 gennaio Il Sole 24 Ore apre con un editoriale del direttore Roberto Napoletano dal titolo «Una nuova Europa contro il nuovo terrorismo. Siamo tutti europei». Questo è il titolo che campeggia tutta pagina sul Sole 24 Ore. Mentre per il Corriere della Sera la notizia è quella che proviene dall'America: «Violati i computer del comando statunitense. Combattiamo per l'ISIS e per il cyber califfato». Questo è spuntato sul profilo Twitter del comando statunitense in Medio Oriente. Ovviamente grande allarme per questo hackeraggio. Repubblica: caccia i complici del terrore. Charlie, nuova satira sull'Islam. Esce il nuovo numero di Charlie Hebdo domani con una copertina proprio con Maometto in prima pagina. La Stampa: la Francia schiera i soldati, caccia a 6 complici dei killer. E questo numero 6 torna anche sul Messaggero: Parigi, 6 terroristi in fuga. Ovviamente un titolo che inquieta non poco. Libero: le 10 bugie sull'Islam, manuale per rispondere ai più diffusi luoghi comuni sulla guerra in corso. Mentre il Giornale: basta coi finti Charlie, ladri di libertà, la sinistra si appropria dei simboli di ciò che ha sempre combattuto. Per Avvenire l'apertura è: cultura dell'incontro, vera arma della pace. Queste sono le parole del Papa. Mentre Trova l'intruso è la foto del Fatto Quotidiano, che mette i leader di Stato che sono stati a Parigi a sfilare domenica. Trova l'intruso perché, scrive il Fatto, tra coloro che hanno sfilato anche 20 leader che nei loro paesi calpestano la libertà di stampa. Queste alcune delle aperture dei quotidiani, ne vedremo altre. Intanto voglio partire proprio dall'allarme massimo, dall'allerta massima in Italia da parte degli 007, come scrive Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera a pagina 6. Il rischio attentati, controlli potenziati soprattutto a Roma e in Vaticano, accessi limitati al ghetto di Roma che è stato pedonalizzato. Ovviamente allerta in Italia a livello massimo. C'è da dire che però anche Repubblica, con Carlo Bonini, a pagina 4, racconta di come, e il ministro dell'Interno Alfano ieri ai microfoni di Simone Spezia l'ha detto chiaramente, cioè non abbiamo dei sentori effettivi di un possibile allarme concreto per quel che riguarda il Vaticano, contrariamente a quello che era stato detto il giorno prima dalle TV israeliane, secondo le quali alcune informative della CIA e del Mossad avevano lanciato questo allarme. Alfano ha detto non abbiamo niente di concreto, e effettivamente anche Repubblica, con Carlo Bonini, racconta: Vaticano, più controlli. Ma effettivamente non c'è fonte politica o uomo di vertice degli apparati di sicurezza, polizia, ROS, DIS, che in chiaro oppure in background non vada ripetendo in queste ore che non esiste allo Stato alcuna minaccia concreta, imminente, specifica, che indichi un rischio attentato concreto, imminente e appunto specifico per la vita del Papa o per l'incolumità delle nostre città o le infrastrutture come metropolitane, linee ferroviarie e aeree. Tuttavia, chiusi nell'angolo da un allarme rilanciato con enfasi dai media americani, israeliani e dalla tedesca Bild, per giunta con significativa coincidenza proprio nel giorno della manifestazione di Parigi, nessuno può sottrarsi all'infernale meccanismo di autoassedio che quell'allarme produce. Insomma, raccontano tutti i giornali, non c'è un allarme concreto, sono tutti convinti in Italia, eppure è partito quel meccanismo per cui si dice allerta massima, da parte di media stranieri si dice attenzione, il prossimo obiettivo è il Vaticano, e quindi scatta quel riflesso di autoproteggersi in qualche modo necessario. Tra l'altro vi voglio segnalare nelle varie reazioni di quello che è successo a Parigi, un'intervista, una delle poche ormai che concede lo scrittore Michel Houellebecq. Houellebecq ha scritto il libro Sottomissione, che immagina un presidente musulmano nella Francia del 2022, è uscito da poco anche alle librerie italiane. Ieri è intervistato da Canal Plus, dopo aver detto sospendo tutte le presentazioni del mio libro. Intanto Houellebecq si dice molto molto triste, molto abbattuto, soprattutto per la morte di Bernard Marie, l'economista che era nella sede di Charlie Hebdo quando c'è stato l'attacco. E dice: io non voglio che mi si dica siete liberi e poi mi si parli di responsabilità per quel che ho scritto nel mio libro. Non ci sono limiti alla libertà di espressione, dice Houellebecq, anche se ha un impatto forte sulla realtà. E poi tutti i romanzieri usano personaggi reali. Il mio libro non è islamofobo, c'è gente in Francia che ne fa una lettura disattenta ed emotiva. E allora cosa ferisce i musulmani? Chiede Canal Plus. Ma i musulmani non sono affatto feriti, risponde Houellebecq. E poi alla domanda finale, ma lei perché allora ha fermato le presentazioni del suo libro? Beh, per diversi motivi, non sto bene e poi non voglio parlare del mio libro proprio adesso. Intanto domani esce Charlie Hebdo, nuovo numero, il numero dopo la strage, 3 milioni di copie di tiratura. Il Fatto Quotidiano, per esempio, scrive, sarà in allegato anche in edicola con il Fatto Quotidiano domani. Nella copertina c'è ancora Maometto. Tutto è perdonato, questo è il titolo della copertina di Charlie Hebdo, e c'è un Maometto in lacrime che tiene il cartello Je suis Charlie. E racconta Elisabetta Rosaspina sul Corriere della Sera, pagina 8. Abemus la copertina, è stata dura, ma quando richiede tempo il risultato è ancora migliore. Il disegno giusto è saltato fuori all'improvviso, abbiamo subito capito che era lui. Sono quasi le 10 di sera quando Gérard Biard, che è il caporedattore al timone della redazione dopo la morte del direttore Charbonnier, annuncia che il prossimo numero del settimanale è pronto. E dice: vi faremo ridere perché abbiamo pianto abbastanza e ora basta. È arrivato dopo ore e ore di abbozzi, prove, fogli in mano, tentativi. La copertina la trovate oggi stampata su tutti i giornali. Io sul mio profilo Twitter Alino Milan l'ho messa, se volete andare a vederla la trovate lì. C'è appunto Maometto in lacrime che dice Je suis Charlie, tutto è perdonato. E questa è la copertina che da domani vedrà Charlie Hebdo nuovamente nelle edicole francesi, ma anche di tutto il mondo. Ovviamente c'è l'allarme in Italia, soprattutto per la vicenda Schengen, anche se Angela Merkel sopra tutti dice Schengen non si discute. Come racconta Beda Romano sul Sole 24 Ore, i recenti attentati di matrice islamica in Francia hanno provocato l'acceso dibattito sul futuro delle politiche migratorie in Europa, su come rafforzare il coordinamento tra autorità nazionali in un ambito che rimane competenza dei paesi. Angela Merkel ieri, dopo che il ministro dell'interno spagnolo Diaz aveva chiesto di rivedere in senso restrittivo le regole di Schengen, ha detto no, Schengen non è in discussione. Questo ha detto Frau Merkel. Piuttosto è importante che attraverso Schengen si scambino le informazioni, che la Germania possa fidarsi della sicurezza delle sue frontiere con una stretta collaborazione con i partner. Dunque, più informazioni scambiate sì, ma Schengen non si tocca. In tutto questo campeggia ancora sui giornali la storia di questa italiana convertita che è andata tra i foreign fighters, è andata a combattere in Siria. si chiama Maria Giulia Sergio, nata a Inzago, nata per la verità in provincia di Napoli, ma cresciuta a Inzago, alle porte di Milano. Oggi Il Fatto Quotidiano con Davide Vecchi. Da Inzago al Jihad, così Maria è diventata Fatima l'integralista. Lì ad Inzago è rimasta la madre. Inutile cercare però di svegliare la memoria e insistere per avere una risposta da lei. I genitori di Maria Giulia Sergio non riescono o non vogliono spiegare come e perché la figlia di 27 anni abbia deciso di convertirsi, sposare la fede musulmana fino a raggiungere la Siria e votarsi al Jihad. Dietro il velo di mia figlia non si nasconde una terrorista, si lascia sfuggire la madre, Assunta, entrando in casa. Mia figlia ha un cuore buono. Chiunque l'abbia conosciuta fin da bambino le vuole bene. E poi chiude la porta e si barrica tutto il giorno in casa. Si ricorda solo Il Fatto Quotidiano anche la sorella di questa ragazza, Marianna, che aveva attirato l'attenzione qualche tempo fa perché si era presentata alle Poste per pagare, fare delle operazioni sul conto corrente, ma si rifiutò di sollevare il burka che portava per mostrare il viso all'impiegata per l'identificazione. Furono costretti a intervenire i carabinieri con una stazione mobile, così da permettere a questa ragazza di 30 anni, questa signora di 30 anni, di alzare il velo, ma non il pubblico, non in pubblico. Per il resto quasi nessuno si ricorda di questa famiglia tutta convertita e poi la figlia minore partita per la Siria. E vabbè, questo è. In tutto questo c'è il grido di dolore quasi inascoltato da parte della Nigeria. Matteo Fraschini Coffi su Avvenire, a pagina 7, racconta lo sfogo dell'arcivescovo Kaigama, arcivescovo nigeriano, che dice... arcivescovo di Jos, una delle città più importanti della Nigeria, che dice: qui in Nigeria c'è una marcia antiviolenza, ma nessuno la fa, e ci vorrebbe come quella di Parigi. Lo stupro è una gravissima offesa alla dignità della donna, che non solo viene violata nell'intimità del suo corpo, ma nella sua anima, con un trauma che difficilmente potrà essere cancellato, le cui conseguenze sono di carattere sociale. Lui, l'arcivescovo di Jos, fa un appello a dire: qui non cessano le violenze che colpiscono in modo indiscriminato la popolazione, continua a crescere il tragico fenomeno dei sequestri di persone, spesso di giovani ragazze che vengono poi per l'appunto abusate per farne loro oggetto di mercimonio, un esecrabile commercio che non può continuare. Lo stesso arcivescovo Kaigama viene intervistato anche dalla Stampa e chiede la stessa cosa, dicendo a Francesco Semprini in questa intervista: vorrei una mobilitazione anche in Nigeria, dove usano le bambine kamikaze, come quella a Parigi. Ci sentiamo vittime di serie B. Boko Haram, questa organizzazione estremista che vuole il califfato centroafricano tra Nigeria, Camerun e Niger, continua a agire indisturbato con metodi disumani, aberranti, da sterminio. Le autorità fanno il possibile per contrastare queste violenze, ma non possono più di tanto, e noi ci sentiamo abbandonati. Prima della pubblicità, come sapete, vi devo raccontare l'articolo che ci fa pensare di questa giornata, e torniamo in ambito vitalizi e in ambito italiano prima di tuffarci nella politica italiana dopo la pubblicità. Eccolo qui sul Corriere della Sera, Marco Cremonesi. Da Mario Capanna, ve lo ricordate Capanna, leader del 68? Mario Capanna, Borghini, ecco l'elenco di 54 nomi che hanno fatto ricorso contro il taglio del 10% dei vitalizi come ex consiglieri della regione Lombardia. Primo firmatario l'ex vice sindaco di Milano Corbani, poi c'è l'ex tesoriere della Lega Patelli, ma ci sono anche per l'appunto Mario Capanna, l'ex sindaco di Milano Borghini ed altre persone. Non vogliono il taglio del 10% del loro vitalizio. Questi politici bisogna attaccarli alla radro e portarli giù il campo a ralo terreno. È arrivato l'arrotino. Alessandro Milan, l'arrotino dell'informazione. Arrota coltelli, forbici, forbicine, forbici da seta, coltelli da prosciutto. Donne, è arrivato l'arrotino e l'ombrellaio. Aggiustiamo gli ombrelli. Questo è quello che mi piace di più. Donne, ma che bello questo annuncio che ci riporta un po' indietro negli anni. Per le cucine a gas. Se avete perdite di gas, noi le aggiustiamo. Se la cucina fa fumo, noi togliamo il fumo della vostra cucina a gas. Vorrei che durasse un quarto d'ora questo è fantastico, mi ricorda l'infanzia, come ricorda l'infanzia di tanti di noi. È arrivato l'arrotino e l'ombrellaio. Allora, ci siamo. Domani Giorgio Napolitano, questo secondo tutti i rumors, secondo tutto quello che racconta i giornali, si dimette. Siamo proprio alle ultime 24 ore, lo stesso Marzio Breda, che è il quirinalista numero uno del Corriere della Sera, racconta queste 24 ore e a un certo punto scrive che possono sembrare anche barocchismi burocratici tutte le procedure che dovrà fare Giorgio Napolitano in queste 24 ore, ma si sa, le istituzioni hanno i loro riti nei quali la forma e sostanza, e tutto comunque durerà un paio d'ore. Certo, ma tutto cosa? Beh, il saluto ai corazzieri di oggi alla caserma Negri San Fronde, ai dipendenti del palazzo, poi scatta la cerimonia dell'addio, semplicissima, senza discorsi ufficiali, come volle invece fare Cossiga quando abbandonò la carica pretendendo che la banda intonasse per lui l'inno sardo. Tra le 9 e le 10 il capo dello Stato andrà nello studio della vetrata, quello delle consultazioni politiche per formare i nuovi governi e degli incontri con ospiti di riguardo, e firmerà 4 documenti. Il primo, di un paio di righe, saranno le dimissioni vere e proprie. Il secondo e il terzo, indirizzati ai presidenti di Senato e Camera, insieme a una copia autentica di quell'atto, daranno informazione del passaggio che si compie. Il quarto atto sarà rivolto al Presidente del Consiglio con la medesima comunicazione. A quel punto il segretario generale del Quirinale, Donato Marra, salirà in macchina, provvederà a recapitare per le vie breve, ossia personalmente, le missive a Palazzo Madama, a Montecitorio, a Palazzo Chigi, e solo dopo l'atto ricognitivo preliminare l'esecutivo, cioè il governo, farà pubblicare la comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale e la procedura sarà davvero completa e formalizzata. Ecco, questa è la procedura spiegata da Marzio Breda sul Corriere della Sera. Lo stesso Breda fa registrare la dichiarazione di Clio Napolitano, la moglie, che fin nel periodo natalizio disse: già il semplice tornare a casa sarà un po' come andare in vacanza. In questa espressione vagamente liberatoria si percepisce adesso anche in Napolitano stesso, fa sapere Marzio Breda. Insomma, il senso di dire: ok, è proprio il momento di lasciare l'incarico. Ecco, che succederà dopo? Beh, dopo si scatenerà il pandemonio politico, il putiferio, la battaglia, la corsa alla successione. Napolitano lascia domani, secondo i retroscena che sono stati un pochino rallentati dalla tragedia di Parigi, ma ora rispuntano copiosi sui giornali. Ecco qui per esempio Francesco Bei, Umberto Rosso su Repubblica raccontano che Renzi ha una strategia ed è questa: niente rosa di nomi, ne farò uno e sarà del PD. Questa pare la strategia di Renzi: farò un nome solo, senza rose, sarà uno di noi del PD. E questo è nell'articolo di Goffredo De Marchis a pagina 16. Quindi l'idea è, attraverso Luca Lotti, che è il sottosegretario, la sua longa manus, la longa manus di Renzi, che esplorerà qual è il nome giusto. Ovviamente si partirà dagli ex segretari del PD, Walter Veltroni, Fassino, Franceschini, Bersani. Poi c'è Romano Prodi, che però ad Arcore continua a essere visto come un nemico. Ci sono poi le sorprese: Finocchiaro, Gentiloni, Castagnetti, Del Rio, Pinotti, Parisi. Ecco l'elenco, alla fine si sfronderà questo elenco, arrivare a un nome da proporre al Parlamento e a tutti. Questa, secondo Repubblica, sarà la strategia. Tra questi nomi, visto che a ogni elezione del Presidente della Repubblica spuntava questo nome, è spuntato anche questa volta, tra questi nomi non ci sarà Emma Bonino. Ieri Emma Bonino su Radio Radicale ha fatto un intervento pubblico che potete ascoltare con la voce a tratti anche un po' rotta dal pianto, ha comunicato di avere un tumore. Ho un tumore, devo curarmi. E inevitabilmente quando un personaggio politico fa una dichiarazione pubblica sulla propria vita privata così dirompente, è chiaro che diventa una notizia pubblica. Ed eccola qui la commozione di Emma Bonino. Ho un tumore, devo curarmi. Prima l'annuncio, recentemente mi sono sottoposta a controlli medici di routine che hanno evidenziato la presenza di un tumore al polmone sinistro. Poi Emma Bonino ha aggiunto quella frase così semplice ma così forte, efficace e a mio modo di vedere splendida. E cioè: io non sono il mio tumore e voi neppure siete la vostra malattia. Dobbiamo solamente pensare che siamo persone che affrontano una sfida che è capitata. Ci sono tanti commenti, ovviamente tanta solidarietà nei confronti di Emma Bonino, che rappresenta in questo caso tutte le persone che affrontano questa sfida importante. Vi sottolineo l'intervento che Umberto Veronesi scrive su Repubblica: perché il coraggio dell'outing è già una prima vittoria. Solo Emma Bonino, scrive Veronesi, poteva iniziare con quella frase: voglio solamente dire che ho un tumore al polmone. Una dichiarazione così coraggiosa per qualsiasi donna, ancor di più per una grande politica, fra le italiane più quotate e ammirata. Ha detto solamente, in quel solamente c'è tutta Emma, c'è la sua ironia, il suo understatement piemontese. Un inno alla lucida razionalità che le fa mettere in chiaro come prima cosa che non sta annunciando una tragedia, una maledetta sventura, ma una malattia che, per quanto seria, è come tante altre. E poi c'è la sua determinazione a affrontare questa sfida con la stessa forza serena con cui ne affrontate molte di altra natura. Il tumore è una prova che cambia le priorità dell'organizzazione della vita, ma non sfiora le passioni, quella politica prima di tutto. Ed è per trasmettere questa forza serena che Emma, vera donna di sinistra impegnata per la tolleranza, la libertà, la solidarietà, pare fare la sua dichiarazione. Il suo messaggio politico è racchiuso nella bellissima frase rivolta a tutti i malati di tumore: io non sono il mio tumore e voi non siete la vostra malattia. Ecco il punto fondamentale anche per Veronesi, visto che, dice il professore, in un primo momento la parola tumore innesca una rivoluzione che stravolge le dimensioni e gli equilibri del mondo intorno, una reazione normale, probabilmente successa anche ad Emma. Ma dopo i primi momenti si può evitare che la malattia diventi l'epicentro e la misura della vita, nella consapevolezza che il tumore ha cambiato volto negli ultimi 50 anni e la sua immagine di spettro della morte deve essere di conseguenza scacciata. Insomma, Emma Bonino ovviamente non sarà della partita del Quirinale. Vabbè, prima delle altre notizie politiche però c'è il nostro Mauro Meazza. Maurone, eccoci qua. Buongiorno Alessandro, buongiorno. Preferivo quasi quando mi introducevi con questioni di, come dire, indagati e inquisiti. Esatto, ovviamente esatto. I migliori auguri per Emma Bonino. Hai già mostrato il nostro disegno di prima pagina? L'hai già fatto vedere agli ascoltatori? No, l'ho fatto vedere. Aspettavo te. Però eccolo qua, con tutte. Ecco, se puoi mandarlo sono, adesso in eccolo onda. Qua. Ecco, qua. Ecco, come vedete c'è scritto: io sono europeo. Penso che si veda molto bene, sì, così, no? Sì, che sì. Si riceva molto bene. Ecco, questa è la nostra particolare, particolarissima prima pagina, pensata appunto da Adriano Attus e Francesco Narracci e Laura Cattaneo. Volevo che tu la mostrassi anche agli ascoltatori. Poi volevo dire, guarda, diamo a tutti molto brevemente appuntamento al 20 gennaio, perché il 20 gennaio non solo dovrebbe arrivare l'Investment Compact, comincia a imparare queste due parole inglesi, introduciamo altre due parole inglesi nel nostro corso che facciamo tutte le mattine, che dovrebbe contenere una serie di misure, lo spiega oggi Carmine Fotina, anche oggi sul Sole 24 Ore, ma anche la soluzione al pasticcio dell'IMU dei comuni montani. Che è un tema che abbiamo seguito. È un tema anche quello abbastanza complesso sulla altitudine del comune che deve essere soggetto o no, per quanto riguarda i terreni agricoli, all'IMU. E poi ti volevo dire, ci manca l'IMUS. L'IMUS è l'IMU secondaria, sì. Allora, siccome ci manca l'IMUS, abbiamo deciso che anche quest'anno ci teniamo la COSAP e la TOSAP. Ma che tenerezza, l'IMUS, l'IMUS mi è tutto chiaro? Sì, sì, mi fa tenerezza, l'IMUS. L'IMUS, è l'IMUS, sì, è l'IMUS, sì, secondaria. Dove ricorda tutto? L'INUS forse, quindi... Non so, la coperta dell'IMUS ci manca e quindi dobbiamo ancora mantenerci la TOSAP e la COSAP. Ma se vuoi scoprire il tutto... Vai sulle pagine Norme e Tributi di oggi, così ti raccontiamo la magistrale e la dolorosa però la storia dell'IMUS, e poi ti raccontiamo anche la storia di quell'avvocato che nel suo atto ha citato nel collegio di difesa anche il collega Guerrieri. Peccato che il collega Guerrieri sia solo il protagonista dei romanzi di Caro Figlio, sì, e non un legale operante. Beh, è stato censurato, non si può invocare, come dire, Perry Mason nel collegio di difesa. Vabbè, una storiella così leggera per cercare di risollevare il tutto. Bene, e allora a questo punto, caro Alessandro, traffico. Alessandro Milan, il pipistrello dell'informazione. Eccoci qua, Batman, piccolo Batman, grazie. Allora, intanto tiene banco invece sempre la polemica politica per le primarie del PD in Liguria. Cofferati oggi fa un Cofferati che ha perso nei confronti a scapito di Raffaella Paita, che ha vinto, ma tra le polemiche fa oggi un'intervista Cofferati a La Stampa, intervistato da Federico Gerimicca, dice: regole stravolte, Renzi se ne sta zitto, di Renzi io non parlo, finora lui non ha detto una sola parola e se sta zitto non posso attribuirgli un ruolo che il segretario né rivendica né smentisce, ma la questione delle regole delle stravolte e dell'inquinamento delle primarie liguri l'ho denunciata per tempo a tutti i livelli. E certo, c'è questa domanda: senta, è stato fregato dai cinesi, lui che è soprannominato il cinese, ce lo dirà la commissione dei garanti ai quali abbiamo girato un mucchio di segnalazioni. Cinesi, giovani marocchini, ex fascisti, vecchi arnesi. L'accusa è quella: Raffaella Paita aveva detto governerò col nuovo centrodestra. Che è successo? Secondo le accuse dei cofferatiani, molti del centrodestra hanno portato gente a votare alle primarie per la candidata Raffaella Paita. Sia il Corriere della Sera che il Secolo XIX raccontano, per esempio, Albenga, in provincia di Savona, è un po' il centro di qualche mistero. Francesco Alberti sul Corriere della Sera, eccolo qua: voto pagato, il giallo del seggio di Albenga. L'ex sindaco leghista dice: ho visto rimborsare gli stranieri. Sapete che bisogna pagare 2 euro per votare alle primarie. E ci sono anche persone che sono entrate nel seggio, hanno votato e poi alla domanda, beh, i 2 euro, dicono: no, noi i 2 euro non li paghiamo. E comparivano dei sindaci, signori o delle persone, a dire: non vi preoccupate, paghiamo noi per loro, e pagavano per loro. A un certo punto il vezzo era talmente diffuso, secondo il Corriere della Sera, marocchini, cingalesi, indiani, tantissimi a votare, che spunta fuori da un seggio un sostenitore di Cofferati al grido: adesso basta, se no ci mettiamo anche noi a distribuire soldi. Insomma, pare un putiferio queste primarie. Anche il Secolo XIX: non avevo soldi, hanno pagato per me. Ecco il passaggio di denaro ai seggi. Ad Albenga, per esempio, il leader ecuadoriano dice: io ho portato 400 immigrati al voto. Si racconta sempre ad Albenga, ma anche in altri posti, di presidenti di seggio delle primarie del PD che raccontano: arrivavano persone che mi hanno detto ecco la scheda, gli ho dato in mano la scheda e loro hanno preso la scheda e hanno chiesto: ma che dobbiamo fare con questa scheda? Ecco, questo vabbè, fatene quello che volete. Ah, così sono andate, pare, le primarie del PD in Liguria. Ovviamente Raffaella Paita dice: sono stati al limite pochissime irregolarità, si accertino, ma il voto è assolutamente valido. Vabbè, l'economia invece, l'economia si fa notare la Fiat oggi, perché come racconta il Sole 24 Ore, c'è su tutti i giornali Andrea Malan: Fiat ha annunciato assumeremo 1000 dipendenti a Melfi, lo faremo col contratto interinale e poi una volta stabilizzati i volumi produttivi. Di che cosa? Della Fiat 500 100X e della Jeep Renegade che vengono prodotte lì, utilizzeremo i contratti a tutele crescenti, quelle del Jobs Act che vengono messi a punto tra un po' di tempo. Renzi subito risponde con un grazie a Sergio Marchionne che precisa, per la verità, da Detroit: li avremmo assunti comunque perché le auto le dobbiamo produrre in qualche modo, ma è evidente la soddisfazione per il Jobs Act quando Marchionne aggiunge: finora qualcuno quando entrava in azienda diventava responsabilità dell'azienda a vita. Ora invece il nuovo meccanismo prevede un impegno congiunto dello Stato e un osservatore straniero riconosce una normativa simile a quella degli altri paesi europei. C'è anche il plauso dei sindacati, anche della stessa Camusso, che non ha mai risparmiato critiche feroci a Marchionne e al Jobs Act di Renzi. Dice Susanna Camusso: i nuovi assunti a Melfi segnano un'inversione di tendenza che non a caso coincide col lancio di nuovi prodotti. E dunque, insomma, una buona notizia, i 1000 assunti a Melfi da parte della Fiat. Mentre, cari fumatori, arriva, pare, una brutta notizia per voi fumatori, ma credo una buona notizia per la comunità: l'offensiva del ministro Lorenzin, proprio a 10 anni dall'approvazione della legge Sirchia che ha vietato il fumo nei luoghi pubblici, si vuole vietare il fumo in auto in presenza di bambini, in presenza di minorenni. Si vuole vietare questo. Politiche comeiniste, le definisce Filippo Facci sul Libero. È un salutismo integralista che uccide la libertà e non il fumo. Sta di fatto che il ministro Lorenzin vuole questo. Vabbè, siamo in conclusione, ci sarebbero tante altre cose da leggere, ma in conclusione oggi voglio dare la carta costa a un amico che abbiamo ospitato anche alle 6:30. In realtà è così, uno scherzo, è un monito, è una cosa detta con affetto, è una cosa detta in amicizia. Nasce oggi, in realtà, grandi auguri a Maria Dinolfi, un nuovo quotidiano che è La Croce Quotidiano. Ne abbiamo parlato alle 6:30, ma ricorda, caro Mario, soprattutto te, ricorda che la carta costa. Milan, la carta costa, ma la voce non va sprecata.